Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci. Una buona giornata, gentili ascoltatori, e ben ritrovati a Nessun Luogo è Lontano. Il saluto vi viene anche da Mira Lucchetti e Massimo Brugnone in redazione e Robby Scaltriti alla parte tecnica. Le coordinate per interagire con noi ormai le conoscete, ci trovate su Facebook Nessun Luogo Lontano trattino Radio 24, su Twitter Nessun Luogo 24 e poi potete scrivere commenti, domande o considerazioni via mail a nessunluogo@radio24 oppure via SMS, quindi condensateli in 160 caratteri al 349-238-6666. L'avete sentito dal GR, l'allarme bomba a Mosca, questo processo alle Pussy Riot che assume sempre toni più incandescenti e connotazioni politiche inequivocabili, e quindi oggi a Nessun Luogo Lontano l'irriverente punk che fa tremare Putin, andiamo a Mosca. Well, it was a music performance that split Russian society and could land three members of a female punk band in jail for up to 7 years. And if they say they haven't declared themselves guilty because they say they're not guilty of criminal offense. E questo al di là, come dire, delle considerazioni strettamente musicali sul genere punk prodotto dalle Pussy Riot, cerchiamo oggi di capire meglio perché la stampa internazionale si interessa sempre di più a questo processo, perché anche dal punto di vista, come dire, delle pressioni interne in Russia, queste tre ragazze stanno diventando in qualche modo un simbolo e forse riusciranno a fare quello che altri dissidenti, altri attivisti non sono riusciti a fare fino adesso. Ne parliamo con Antonella Scott del Sole 24 Ore, giornalista esperta di questioni russe. Antonella, buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, è corretta la lettura, secondo te? Innanzitutto che è un processo assolutamente politico e, come dire, questa, il vilipendio o meglio l'oltraggio all'altare è stato preso assolutamente per pretesto. Ricordiamo che le tre ragazze hanno fatto questa incursione nella chiesa moscovita e in qualche modo, insomma, si sono accesi i riflettori su di loro. Sì, direi che sta sempre di più assumendo i connotati di un processo politico. Tra l'altro, ricordavate l'allarme bomba di oggi, è successa una cosa che alimenterà sicuramente le polemiche sul modo in cui queste tre ragazze, Masha, Nadia e Katia, vengono trattate. Pare che quando è stato fatto evacuare il tribunale dove si svolge il processo, loro tre sono state costrette a rimanere nella loro gabbia, che tra l'altro, ricordiamo, è la stessa identica, è lo stesso tribunale, la stessa aula, la stessa gabbia dove è stato processato Mikhail Khodorkovsky, che è l'altro grande processo a cui si può forse accostare questo, cioè un processo che viene considerato politico perché al di là del reato particolare di queste ragazze o di quello per cui veniva accusato Khodorkovsky, si vedono delle motivazioni politiche, cioè una campagna del Cremlino che vuole screditare in questo caso l'opposizione. La loro protesta, appunto, come ricordavate, loro si erano presentate a febbraio sull'altare della cattedrale di Cristo Salvatore, la cattedrale ortodossa a Mosca, in minigonna, con il viso coperto da maschere, e avevano inscenato una specie, quella che loro si chiama preghiera punk, sì, una rivolgendosi alla Madonna chiedendo di liberare la Russia da Putin. Sì. Ecco, questo forse è un reato che se noi pensiamo come potrebbe essere trattato nei nostri paesi, sicuramente è forse eccessivo pensare che da allora le ragazze sono in carcere in detenzione preventiva e rischiano, per l'accusa è di teppismo motivato da incitamento odio religioso, rischiano fino a 7 anni. Ecco, forse questo è davvero eccessivo, infatti loro chiedono che il loro reato venga considerato un reato civile, non penale. Ecco, come i moscoviti e la società russa sta accogliendo questa nuova dirompente pagina, no? Nella dissidenza interna? Sì, sembra che l'opinione pubblica sia sempre di più, anche perché visto appunto il trattamento riservato, sembra sia sempre di più dalla parte delle ragazze. Tra l'altro ricordiamo, sono tre ragazze di tra i 22, 24 e 29 anni, due di loro sono delle mamme. Alla gente questo non piace che vengano appunto trattate in questi giorni, loro hanno denunciato il trattamento per cui vengono costrette a rimanere nell'aula di tribunale 11 ore al giorno, vengono quindi costrette a dormire poco, a mangiare poco, ieri non si sono sentite bene. La gente, credo la maggior parte dei moscoviti, pensa che per quanto possa offendere un atto come comprensibile, sì, come questo, è eccessivo il trattamento. Certo, ci sono anche quelli che ancora, come diversi testimoni che sono ascoltati, che stanno sfilando nell'aula di tribunale, che invece spiegano di essere rimasti offesi da un gesto del genere, tanto da non riuscire più neanche a entrare nella cattedrale, e per cui vanno a sfoderare parole come si meritano l'inferno per una cosa del genere. Ecco, si scontrano un po' due anime anche della Chiesa ortodossa, della religione ortodossa, tra chi ancora ha una visione un po' rigida e sì, conservatrice, e invece credo la maggior parte dei russi anche osservanti, che invece chiama la tolleranza. Ecco, fra l'altro, per uno strano gioco in cui storia musicale e geopolitica si intrecciano, Putin in queste ore è proprio a Londra, dove il movimento punk è nato, e dove da Londra sta partendo un appello dei musicisti britannici. Fra l'altro ci sono nomi anche importanti, perché c'è l'ex Who, Pete Townshend, per dirne uno, e insomma, fra l'altro anche Elio e le Storie Tese, per parlare di casa nostra, starebbe appoggiando, hanno deciso di cambiare nome momentaneamente. Insomma, sembra che la musica riesca a fare quello che magari, no, altre forme di dissidenza, sembra che la musica possa essere un grimaldello formidabile. Ma la domanda è questa, a questo punto, siccome leggendo anche questa preghiera alla Madonna, che appunto dice liberaci di Putin, no, non c'è una grande visione politica dietro alle Pussy Riot, questo diciamocelo, o no? Certo, certamente. Diciamo che il dissenso, la mancanza di tolleranza di fronte a un chiamiamola espressione artistica, ha comunque una valenza, per cui la durezza, questa appunto intolleranza del regime, questo trattamento verso le tre ragazze, è davvero sproporzionato. Quindi il mondo degli artisti, appunto da Sting a Peter, sì, Gabriel, che difendono il diritto legittimo al dissenso in ogni democrazia, direi che è particolarmente evidente, perché sicuramente renderà sempre più fuori dal tempo quello che sta avvenendo, quello che è il trattamento riservato, la sproporzione, certo, tra il gesto artistico e la repressione. Se nel caso di Khodorkovsky si parlava di accuse di furto, di espropriazione indebita di ricchezze sproporzionate rispetto al resto della Russia, di una privatizzazione selvaggia, ecco, erano argomenti di una portata diversa rispetto a questa. E questo che forse renderà più questo processo si ingigantisce, più è veramente sproporzionato e fuori dal tempo un regime che pensa ancora di che questi sono i suoi nemici. Sì. E forse un po' un grande paradosso, per cui una protesta che non ha un respiro politico, non ha una visione di lungo termine, che, come dire, espressione di libertà, poi criticabile o meno, di libertà personale, poi potrebbe forse dare una ulteriore spallata, insomma, a quella che è il regime di Putin. Chissà, è quello che ci auguriamo, anche se nello stesso tempo c'è un altro episodio che sta nascendo e che invece si presenta piuttosto più serio nel senso di una portata diversa del tipo di accuse. È l'altro grande rappresentante, un altro grande rappresentante dell'opposizione, Alexei Navalny, che è stato uno dei leader delle manifestazioni dei mesi scorsi, che è stato incriminato ieri per per furto di legname. Anche questa è, un po' come nel caso di Khodorkovsky, un'accusa che sembra proprio pretestuosa. Pretestuosa, e che viene usata perché Navalny sta diventando un personaggio sempre più scomodo, è forse quello che nel fronte della dissidenza potrebbe essere più pericoloso per Putin, perché si parla di un suo possibile ingresso in politica. Ecco, questo signore sta, lo ha detto anche ieri in un'intervista, consapevole che molto probabilmente finirà in prigione, e come se si riaprisse la stessa storia di quello che è successo nel 2003, cominciò il dramma di Khodorkovsky. Sì. È come se non, il regime si perpetua e non impara a stare dietro alla società che lui stesso ha contribuito a creare, alimentare questa nuova classe media, questi giovani che si esprimono, che arrivano a esprimersi paradossalmente poi all'eccesso, come queste tre ragazze. Però è ormai una società che è come se fossero su due mondi diversi. Non dovrebbe essere più accettabile che un regime sta in piedi combattendo con queste armi in episodi come questo. Ecco, fra l'altro, in realtà poi il processo Khodorkovsky aveva, come già giustamente ricordato, motivazioni economiche, e lui, voglio dire, insomma, è un personaggio anche finanziariamente, no, economicamente importante, quindi stupisce ancora di più, se vogliamo, no, questo accanimento contro tre ragazze, dicevi tu, appunto, alcune di loro anche madri di famiglia. Infatti, quindi separati per mesi e separate per mesi dai loro bambini in questo periodo. Appunto, tra l'altro, sono in carcere da febbraio, da certo, marzo. Tra l'altro, Antonella, fa sorridere perché ci sono i primi emuli delle Pussy Riot nella vicina Ucraina, fra l'altro, e quindi è nata una band a Sebastopoli, che fra l'altro è città vicina alla Russia, quindi russofona. E, adesso stavo cercando il nome, ma le agenzie ancora non lo riportano, però insomma c'è stata una protesta molto simile dentro la cattedrale di Vladimir, proprio a Sebastopoli, durante appunto una preghiera. Insomma, pare che questa metodologia, no? Così punk, così ribelle, insomma, abbia creato anche i primi emuli nella vicina Ucraina. Grazie, Antonella Scott. E a nessuno che lontano voltiamo decisamente pagina, lasciamo l'Europa, andiamo in Africa, andiamo in Nigeria, nel più popoloso paese dell'Africa, dove la violenza nel nord non si arresta, dove non passa una settimana senza che non vi sia un attacco rivendicato il 99% delle volte dalla setta islamista di Boko Haram. L'ultima rivendicazione riguarda un attacco avvenuto lunedì, un attacco che ha fatto più morti e più feriti a Sokoto. Boko Haram che mostra sempre di più i muscoli e che getta benzina sul fuoco su una possibile, da tanti analisti evocata come spettro, guerra di religione. Cerchiamo di capirne di più, lo facciamo con Alessio Fabiano, docente esperto di storia dell'Africa contemporanea all'Università Cattolica. Fabiano, buongiorno. Buongiorno. Alessio Fabiano, la prima domanda è questa. Boko Haram mostra i muscoli, imbraccia il Corano e il Kalashnikov allo stesso tempo. Qual è l'obiettivo di Boko Haram, al di là del proclama ufficiale più volte manifestato, che è quello di applicare la Sharia all'intero paese africano? Sì, a parte questo obiettivo generale, diciamo, di portata nazionale, direi che il principale obiettivo di Boko Haram e di gruppi simili a Boko Haram, gruppi, cioè, terroristici ed estremisti, è quello di raccogliere il consenso per rivendicare spazi di potere locale più ampi, perché dobbiamo sempre cercare di vedere, diciamo, le questioni nigeriane, quello che accade in Nigeria, da un punto di vista locale, per poi magari trarre anche delle conclusioni tipo nazionale. Questo significa quindi, per Boko Haram, in un paese spartito a metà dal punto di vista religioso, con un nord musulmano e un sud cristiano, ampliare, diciamo, le fette di potere, quindi il proprio spazio in quel mondo musulmano che, come sappiamo, si divide comunque in più parti, insomma, sì. C'è una parte più estremista, una parte più moderata, e quindi lo scopo è quello di centrare l'obiettivo di portare quante più persone dalla propria parte. Allora, facciamo il punto su chi, come e dove in Nigeria. Ascoltiamo insieme una scheda. Due stazioni di polizia sono state investite il 30 luglio scorso da due esplosioni a Sokoto, nel nord-ovest della Nigeria, causando la morte di almeno due persone ed una trentina di feriti. Sono oltre 400 i morti e più di un centinaio i feriti provocati dagli attentati dal giugno del 2011 ad oggi. D'altronde, è dal luglio 2009 che il governo nigeriano sta conducendo una difficile lotta contro il movimento di Boko Haram, setta religiosa di matrice fondamentalista islamica che vorrebbe l'istituzione della Sharia in tutta la Nigeria, con la conseguente distruzione della comunità cristiana. Attiva dal 2002, la setta si definisce antioccidentale e opera soprattutto nel nord del paese con atti di terrorismo, l'ultimo dei quali risale appunto a pochi giorni fa, quando sono rimasti uccisi un poliziotto ed una donna. Il gruppo islamico Boko Haram ha una lunga storia in Nigeria, fatta di estremismo religioso, forte senso di rivalsa sociale, collegamenti internazionali e un'incredibile escalation militare. Ma è dall'estate dell'anno scorso che sembra aver messo la quinta, dimostrando con forza le proprie capacità logistiche e militari. La guerra libica, l'apertura degli arsenali di Gheddafi e i contatti con Al-Qaeda nel Maghreb potrebbero aver giocato un ruolo determinante. Il 26 agosto 2011, colpendo la sede ONU nella capitale, Boko Haram ha fatto un salto di qualità su due fronti. Quello geografico, spostando la front line del conflitto nel cuore del paese e non limitandola al solo nord, e quello politico, colpendo un'istituzione internazionale, ottenendo così una visibilità mediatica senza precedenti. Nel mese di aprile scorso, un centinaio di miliziani di Boko Haram sono stati visti a Gao, nord del Mali, a fianco dei ribelli Tuareg e di elementi di Al-Qaeda nel Maghreb islamico. Evenienza che non fa che corroborare la tesi secondo cui Boko Haram è alla ricerca di un'espansione geografica e di un'internazionalizzazione della sua lotta. La contrapposizione nord-sud, cristiani-musulmani, nasconde divisioni tribali ed etniche da non sottovalutarsi. L'intreccio è economico, religioso e sociale insieme. Un sud ricco e più sviluppato a maggioranza cristiana e un nord povero, depresso e con poche speranze e risorse per il futuro. Benzina per i movimenti estremisti come Boko Haram, che spesso parlano alla pancia e cavalcano con facilità il diffuso malcontento popolare. E dunque questa è la fotografia della Nigeria attualmente, però ascoltiamo insieme le ultimissime dal nord, in particolare dallo stato di Plateau e dalla città di Jos, dove abbiamo raggiunto Padre Kangyep, che è un missionario che vive e lavora a Jos. For about a month or so there has been no bomb attack in Jos City. Da circa un mese a questa parte non ci sono stati più attacchi nella città di Jos, ma ci sono stati attentati in cinque villaggi attorno a Jos, in particolare alle sedi di governo locali di Riom e di Barikiladi. Molte persone sono rimaste uccise, soprattutto donne e bambini. C'è stato anche un attacco ai funerali delle vittime in cui sono rimasti uccisi due politici nazionali. Attualmente in città ci sono molte forze di sicurezza, con posti di blocco, controlli. Sono anche stati arrestati alcuni esponenti di Boko Haram. Credo che il governo stia facendo del suo meglio, anche se non è ancora sufficiente. Le misure di sicurezza non sono adeguate. Dovrebbe fare qualcosa di più, come per esempio assistere meglio i cittadini per poi coinvolgerli maggiormente nella lotta a Boko Haram. Il governo dovrebbe anche aprire il dialogo con le frange della popolazione che sono più insoddisfatte, per evitare poi lo scoppio di violenza. Il governo sta facendo qualcosa, ma dovrebbe fare molto di più. Fortunatamente molte ONG stanno creando una rete di aiuto, di supporto, di dialogo per cercare una via di pace. Questa è la situazione a Jos, aggiornata a poche ore fa. Si parlava di ONG appunto che lavorano nel nord della Nigeria. Ci sono fra l'altro molti italiani, molte aziende italiane che lavorano nel paese africano, non solo nel nord ma anche appunto nel ricco sud petrolifero. E abbiamo con noi ospite Leonello Fani, ex responsabile dei progetti in Nigeria di un'ONG italiana, anzi di una ONLUS, che si chiama Purimac, e che è da poco, relativamente poco, tornato proprio da Jos. Leonello, buongiorno. Ciao, buongiorno. Ecco, Leonello, perché sei tornato? Direi anzitempo, credo, no? Sì, ho fatto la mia ultima visita giù, che era dicembre del 2011, quindi sei mesi fa. La situazione della sicurezza per un occidentale in quella regione, in particolare nella città di Jos, com'era? Lì dipende alcuni elementi. Leonello, ti preghiamo di... Adesso proviamo a richiamarti perché la comunicazione era disturbata e molto lontana. Era Leonello Fani, che adesso cerchiamo di recuperare, che fino a dicembre appunto viveva e lavorava a Jos. Andiamo invece ad Alessio Fabiano, docente alla Cattolica, esperto di storia africana contemporanea. Stavamo cercando di tracciare quelle che sono le reali motivazioni dietro a Boko Haram, perché poi l'Islam risulta essere un vestito estremamente comodo in certe situazioni. Alessio, in particolare, in una dichiarazione rilasciata all'AGI poche ore fa da Shehu Sani, che è un analista e un attivista nigeriano molto, molto quotato, molto ascoltato, lui diceva che fondamentalmente la benzina grossa che viene data a Boko Haram viene da alcuni politici del nord. Aiutaci a capire meglio questo braccio di ferro che quindi si svolgerebbe tra politici locali degli stati del nord e il governo centrale di Goodluck Jonathan. Sì, in parte è vero, perché appunto, ritornando al discorso che il locale in Nigeria in modo particolare influisce sul nazionale, i politici locali cercano anche loro di raccogliere quanto più consenso possibile per quindi fare il salto all'interno della gerarchia istituzionale nigeriana, e questo li mette in conflitto con alcune parti, alcuni settori dell'apparato statale attualmente in mano a Goodluck Jonathan, che è il presidente e che proviene da uno stato del sud. Precedentemente all'elezione di Goodluck Jonathan c'era Umaru Musa Yar'Adua, che era appunto anche lui presidente della Nigeria, però musulmano. La sua morte ha provocato una sorta di scombussolamento interno al potere nigeriano. Esisteva una regola per cui chi era presidente lo diventava per due mandati, una regola ovviamente diciamo non scritta, per poi lasciare il posto ad un futuro presidente candidato che venisse dal sud. Questa regola è saltata quando appunto è morto Musa Yar'Adua ed è andato al potere invece Goodluck Jonathan. E quindi, come vediamo, anche delicati equilibri, come dire, religioso-istituzionali entrano nella vicenda nigeriana. Abbiamo recuperato il collegamento con Leonello Fani, a cui prego estrema sintesi. Ci stavi raccontando della situazione della sicurezza a Jos, appunto. Sì, la sicurezza nella città di Jos in questo momento, dalle notizie che giungono, è abbastanza, come dire, normalizzata. C'è un dispiegamento di forze militari e di polizia che riescono a controllare il territorio con una presenza massiccia di checkpoint. È stato, dopo gli attacchi di qualche settimana fa, ripristinato il coprifuoco per 12 ore, in pratica dalle 6 di pomeriggio alle 6 di mattina è vietato, diciamo, andare in giro per la città. Per quanto riguarda le presenze occidentali, a Jos ce n'è poca, gli italiani rimasti sono in tre e lavorano più che altro nel settore delle costruzioni. C'è un perenne collegamento e comunicazioni con la nostra rappresentanza italiana ad Abuja, sì. E il che diciamo fa stare la comunità, seppur ristretta, degli italiani a Jos in collegamento con un più ampio circuito internazionale di sicurezza. Ecco, in altri termini si può dire che la sicurezza nel locale, il controllo del territorio è abbastanza forte e la presenza degli italiani giù non rischia, almeno su Jos, di essere messa in pericolo. Questa quindi la situazione della sicurezza, peraltro ricordiamo tutti il rapimento, uno dei quali è finito tragicamente nei mesi scorsi, di due ingegneri italiani nel nord della Nigeria. Ma io vi invito, gentili ascoltatori, se avete la possibilità di andare su Google Maps, digitate Jos, digitate Nigeria, per avere un'idea di che territorio vasto di cui stiamo parlando quest'oggi. La minaccia Boko Haram, la tentazione jihadista in Nigeria, i rapporti fra cristiani e musulmani nel nord del paese, di questo stiamo parlando quest'oggi a Nessun Luogo è Lontano. E allora torniamo a Jos, dove padre Kangiep dà un giudizio e una visione su Boko Haram. There are very many issues involved in the Boko Haram movement. Of course, il problema di Boko Haram va ben oltre la religione. La religione è solo un aspetto, ma ci sono anche altre questioni in ballo. Certo, Boko Haram si definisce un gruppo islamico che si batte contro l'educazione occidentale, ma è certo ormai che sono stati sponsorizzati da alcune forze politiche. E poi c'è un altro punto. Boko Haram è avvantaggiato anche dalle condizioni economiche in cui versa la popolazione. Non disponendo dei mezzi di sussistenza, molte persone sono facilmente manipolabili da gruppi di questo tipo. La povertà divide la società nigeriana e la rende fertile per le attività violente di Boko Haram. Una violenza, quella condotta da Boko Haram, che è resa possibile da anche una grossa potenza di fuoco, perché lo ricordavamo nella scheda inizialmente. È certo che le primavere arabe e l'apertura di alcuni arsenali, nella fattispecie quelli libici, abbiano rifornito alcune linee di contrabbando di armi, che in qualche modo siano arrivate non solo ad Al-Qaeda nel Maghreb islamico, ma anche molto probabilmente a Boko Haram, con i quali Al-Qaeda nel Maghreb islamico ha di certo collegamenti. Abbiamo accennato alla questione annosa, gigantesca, diciamo, del conflitto cristiani e musulmani in Nigeria. Leonello Fanni, dal tuo punto di vista, quello che hai osservato a Jos, qual è il rapporto tra le due comunità? Si parlano cristiani e musulmani? Si odiano? Vanno d'accordo? Ma innanzitutto bisogna dire che come fa Al-Qaeda, anche Boko Haram miete la maggioranza delle sue vittime tra i musulmani e non tra i cristiani. E questo qui è un primo elemento che dovrebbe far riflettere. E fai bene a ricordarlo. Fra l'altro molti imam moderati, tra virgolette, sono finiti nel mirino di Boko Haram negli ultimi mesi. Prego. Esattamente. E nello specifico, nella città di Jos, che è una città di frontiera, è proprio nella Middle Belt nigeriana, e quindi chi prende la città di Jos e la città di Kaduna, dall'altra parte nello stato di Kaduna, è come se acquistasse la maggioranza più uno del paese. I rapporti tra comunità nella città di Jos sono abbastanza tesi, cioè su un livello di ragioni di contrapposizione che sono strutturali e che vengono da lontano, sulle quali Boko Haram ha fatto la sua forza, cioè Boko Haram significa l'educazione occidentale è peccato, domandiamoci perché questo tipo di messaggio sta avendo un terreno così fertile, l'atteggiamento e le elite filo occidentali hanno fatto sì che nel paese più ricco di petrolio in Africa ci sia un 85% di popolazione costretta a vivere al di sotto della soglia di povertà, un secondo elemento da dover sottolineare. A Jos i rapporti tra comunità religiose oggi sono assolutamente polarizzati, esistono delle zone della città che sono state ribattezzate la Nuova Gerusalemme o la Nuova Mecca, sì, ad esemplificare un po' la contrapposizione che si è creata, e anche nei commerci all'interno del mercato centrale della città i musulmani non commerciano più con i cristiani, non comprano e non vendono più ai cristiani, e così fanno i cristiani nei confronti dei musulmani. A dire che un tessuto che prima era risaputo come la città del turismo e della pace, oggi è completamente reciso, e per ricostruirlo non ci vuole soltanto l'azione delle poche ONG presenti lì, ma serve anche una assoluta maggiore attenzione da parte dell'intera comunità internazionale. Ecco, Leonello, la fotografia che ci stai regalando di Jos è molto accurata, molto dettagliata. Stiamo parlando di una città in particolare, una città molto importante, e proprio per quello che ci racconti, come dire, mi viene una domanda che adesso rivolgo ad Alessio Fabiano e mi chiedo: perché allora Boko Haram, con una strategia così efficace nel tessuto locale, no? Cioè lavora sulle pance, lavora sulle strati più poveri della popolazione, perché poi è facile, no, dire il governo centrale guardate come vi tratta eccetera, e poi va a colpire proprio ad Abuja e, come dire, mette la quinta e ottiene visibilità internazionale. The twisted metal, shattered glass and huge hole show the strength of the blast. Witnesses say a car packed with explosives ran through two separate gates, exploding just outside the building's main reception. Perché a fine agosto del 2011 avete sentito quell'attacco incredibile alla sede ONU di Abuja, della capitale, è stato letto da molti come un ricercare una vetrina internazionale, un internazionalizzare questa crociata jihadista di Boko Haram. Adesso Fabiano, perché Boko Haram in quel caso lì, se è vera questa lettura, ha iniziato a cercare una ribalta internazionale, quando poi, voglio dire, le questioni nigeriane, no, sono lì, potrebbero essere risolte molto più sotterraneamente, molto più, come dire, perdonate la mia espressione, zitti e spara e si andrebbe avanti? Beh, per Boko Haram significava cercare di colpire un obiettivo grande con mezzi militari. Questo avrebbe dato, o ha dato, come effettivamente è accaduto, più forza sul terreno, quindi ha aumentato le prospettive stesse di questo gruppo. L'ha fatto diventare qualcosa di importante agli occhi di molti nigeriani, soprattutto dei nigeriani del nord, ma nello stesso tempo ha anche posto il problema al centro del governo nigeriano, che fino ad allora non aveva trattato Boko Haram come una forza che avrebbe potuto destabilizzare un intero paese, sì, ma lo trattava semplicemente come un gruppo, uno dei tanti gruppi che lottavano contro il governo. Quindi l'escalation ha significato per Boko Haram aumentare il proprio peso tramite una forza, diciamo così, internazionale, cioè sul proscenio internazionale. E questo certamente corrobora l'ipotesi, insomma, per cui poteri locali, politici comunque, che spalleggerebbero, supporterebbero Boko Haram, sono, insomma, la ricerca, no? Insomma, è la strategia, lo dicevamo anche ieri parlando del Congo, uno mostra i muscoli, fa vedere di quello di cui è capace, mette sul piatto della bilancia il potere e poi, insomma, si chiacchiera amabilmente davanti a un tavolo. Però volevo tornare da Leonello Fani, che conosce molto bene Jos. Si può, passeggiando per le strade di Jos o per il mercato, sussurrare quella parola? Si può dire Boko Haram? E la gente come reagisce lì a Jos? Una prima precisazione sull'attentato all'ONU dell'anno scorso. Sì. A mio avviso, e ad avviso di altri analisti, l'obiettivo era quello di ridefinire la presenza internazionale in Nigeria, cioè non era tanto una vetrine, l'acquistare una visibilità, era la ridefinizione dell'intera presenza degli internazionali, a cominciare dalle compagnie petrolifere in Nigeria, anche perché ricordiamo che una gran parte delle risorse che vengono dai proventi del petrolio al nord non arrivano. Sì. E per questo Boko Haram ha scelto l'obiettivo Nazioni Unite, proprio per dare un segnale al governo centrale che Boko Haram non è d'accordo, anzi spinge su una assoluta rivisitazione di questa presenza internazionale. Dall'altra parte, alla tua domanda, la comunità nigeriana, la nazione nigeriana, diciamo, se così si può chiamare, è anche molto, ironica e non guarda tanto, ecco, il quadro generale. Come diceva l'interlocutore qui in trasmissione dell'Università Cattolica, il locale è una dimensione privilegiata. E quindi sì, se a Jos si nomina Boko Haram, non si fa scalpore, anzi se ne discute e se ne discute anche con una sorta di sorriso, ecco, con un distacco abbastanza evidente. Figurati che ogni volta che sentiamo il nostro staff locale giù, il giorno dopo magari un attentato che ha mietuto 5, 6, 10 vittime e domandiamo su che aria si respiri, rispondono sempre no, qui in città la situazione è tranquilla, per dire che l'atteggiamento, ecco, è un atteggiamento da una parte disincantato e dall'altra parte anche di come la si può chiamare, una abitudine alla violenza che purtroppo c'è. Sì, grazie. Allora, Leonello Fani, ex responsabile dei progetti in Nigeria di Apurimac Onlus, buona giornata, buon lavoro. Grazie anche a Alessio Fabiano, docente della Cattolica, esperto di storia africana contemporanea, appunto, qui all'Università di Milano. Grazie anche a Mirella Lucchetti, Massimo Brugnone in redazione, Robby Scaltritti alla parte tecnica. Una buona giornata, un saluto da Giampaolo Musumeci, ci risentiamo domani.